24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Sono le 6:29 minuti, cari ascoltatori, buongiorno. Questa è 24 mattino, guardo il mio tecnico Carmelo Lauricella che mi dice abbiamo cambiato tutto il sistema audio. Posso mandarti solo la sigla, ma non leggo nessun file, non ci sono le sigle, le controsigle, i file che abbiamo tagliato, che il nostro Alessandro Longoni ha appena tagliato, niente, è la modernità, abbiamo cambiato tutto e non funziona niente, solo la sigla, eccoci qua. Questo è 24 mattino, quindi oggi saluto la signora che finalmente potrà godere del caffè di Nicole Minetti, ma senza arrabbiarsi. Saluto il signore che oggi non mi darà del coglione e, insomma, siamo tutti contenti così. Evviva, niente sigle, viva le sigle. E allora, queste sono le 6:30 minuti, ci sono almeno gli ospiti, sì, quelli sono con noi a lottare insieme a noi. Voglio salutare subito Mario Dinolfi, buongiorno. Buongiorno. Celebrare, ecco, le tue quasi fedi, dai, sì, si apre oggi la 12ª settimana decisiva per la riforma elettorale, ricordiamoci, così come è vero, la 12ª della legislatura, si apre la 12ª settimana decisiva per l'abolizione delle province, questo l'abbiamo certificato e via, lo mettiamo in un cassetto. Marione, ti presento anche oggi il nostro grandissimo e unico Alberto Forchielli, anche lui lo chiamiamo Albertone a volte. Forchielli, buongiorno. Ciao Alino, io devo salutare Alt e l'officina della TM Ferro Tranviere di Milano che mi scrive sempre con tanto affetto. Ah, i Ferro Tranvieri di Milano, fantastico. Salutiamo Marione Adinolfi, vuoi salutare anche tu i Ferro Tranvieri di Milano? Non me ne frega niente dei Ferro Tranvieri di Milano. Ma perché? Ma subito, no, perché stai per a Roma. Farmi qualche amico in più. Infatti. Alberto Forchielli è presidente dell'Osservatorio Asia. Dove si trova? In Asia, no? Imola. Ah, Imola. Basta, ormai è tornato in Italia, non la molla più l'Italia, L'estate si fa in Italia, il bel paese del mondo. Ah. Per quanto l'estate a Imola sia tosta. Sì, esatto. Un'estate a Imola, effettivamente, Forchielli, non è quell'estate. No, in campagna, poi in campagna, un paradiso. Ah, vabbè, quella famosa estate a Imola. Vabbè, allora, qui volevo farvi sentire delle cose. Ma non c'è niente da sentire, non ci sono sigla, non ci sono audio, non ci sono... Ah sì, Carmen, attenzione, dice come Lazzaro, sono ricomparsi gli audio. E allora che facciamo sentire? Vogliamo far sentire Casaleggio che teme, che cosa teme? Casaleggio, il guru del Movimento 5 Stelle, senti bene Forchielli cosa teme? Penso che il paese avrà nei prossimi mesi purtroppo uno shock economico. Questo shock economico potrebbe portare o a una ridefinizione della rappresentanza politica, cioè non quella attuale, oppure a uno spostamento dalla politica, da problemi cosiddetti politici, a problemi di carattere sociale, certo. Disordini e rivolte. Disordini e rivolte. Forchielli, a parte che parla con mica come un guru, parla un po' con un tono sempre così, Casaleggio, sempre un po', dice un po' come un'ingroia del nord, no? Disordini, rivolte. Però, oh, Forchielli, teme disordini e rivolte, Casaleggio? Ma gli italiani hanno sopportato tanto, i prossimi mesi saranno stabili. Saccomanni parla di ripresa, no, è una ripresa, è come una macchina in folle sulla rampa del garage, però è sempre la seconda parte del 2013, dovrebbe essere un più 0.1 e il 2014 dovrebbe essere uno 0.7, il che vuol dire che in sostanza non cambia niente per gli italiani, però non dovrebbe peggiorare. Se sono stati tranquilli fino adesso, staranno tranquilli ancora. Non ho ragione di pensare che ci dovrebbero essere grandi cose. Qua ad Inolfi, beh, quando si dice l'autunno caldo, qua a Tutti gli Casaleggio. autunni non essere caldi, non sono mai caldi. Cioè, allora, adesso Infatti, meno fra male, meno male. settembre-ottobre comincia la rivoltina degli studenti e lì faremo Ah, lunghe analisi vecchio. sociologiche sul finalmente arriva l'autunno caldo. Poi ci sarà qualche scioperone, ma insomma sostanzialmente non succede niente. L'Italia è un meraviglioso paese in cui i dati di Forchielli sono sì interessanti, ma poi c'è l'economia sommersa, l'87% è proprietario di casa, quindi la sostanza è che questo paese è purtroppo, io dico purtroppo perché ci fosse qualche scossone la classe politica sarebbe un minimo più attenta a quello che deve fare, purtroppo è una società sostanzialmente statica dal punto di vista sociale, non ha proprio istinti di rivolta. Tradizionalmente sappiamo che l'Italia non è paese né di rivolte né di rivoluzioni, non è successo mai nulla, insomma, nella nostra storia. Siamo stati dominati per 1860 anni, non gli fregano niente a nessuno. È Quindi che purtroppo una rivolte? condizione. Che No, rivolte dice? l'analisi di Casaleggio in realtà poi l'intervista è lunga, è abbastanza interessante. Questa parte non è centrata. No, è quella che è finita su tutti i giornali. Come al ovviamente. solito. Tutti i giornali oggi titolo Casaleggio, temo rivolte e uno shock economico. Qui Forchielli, però la domanda è, che cosa deve fare il governo in autunno, visto che dovrebbe fare tutto, ma che cosa bisogna fare per dare veramente dei segnali, un po' una scossa, un qualcosa, non certo quello che si legge sui giornali, il tagliando, il rimpasto, mamma mia, quanto è vecchia sta politica, sembra del 1300, no? Se si parla di rimpasto, di tagliando, di verifica di governo, queste cose veramente appartengono alla politica vetusta. Forchielli, che deve succedere in autunno? Che dovrebbe fare il governo? Cioè, un governo teorico, però, se parliamo tra le nuvole, Cioè, come se ci fosse un governo, dici, sì, no? come se ci fosse un governo che ha il potere di farlo, già l'ho detto una volta che sarebbe quello di abolire il TAR e il Consiglio di Stato per far partire le cose, che blocca tutto. Secondo, bisognerebbe mandare a casa un tot di dipendenti pubblici, pletora di guardie forestali che appiccano il fuoco solo per giustificare il proprio lavoro, pletore in alcune regioni, dirigenti regionali che non si sa che cosa facciano, capito? Bisognerebbe avere il coraggio in questa spending review di mandare a casa quell'eccesso di dipendenti pubblici, invece di tagliare la benzina dei carabinieri. Qui siamo arrivati al punto quando fa la spending review. Capito? Taglia la benzina ai carabinieri. Se lei va in una stazione dei carabinieri, si accorge che la maggior parte delle macchine sono in garage che aspettano la manutenzione, o che la polizia a luglio finisce il toner nelle fotocopiatrici. Sì. Questo è il problema. Però sono manovre coraggiose. Per Poi il esempio, governo. che ne pensa di questa che si è scritta oggi sulla stampa? Renzi pensa a un contributo delle pensioni per chi guadagna, per chi prende di pensione più di 3.500 euro, le maxi pensioni. No, io sono d'accordo, però sono populistiche, ossia sono cose che non incidono. Ossia, devo dire, nel principio sono cose che vanno fatte, ma non illudiamoci, queste misure non spostano gli indici macroeconomici del paese, perché le maxi pensioni sono un XXX%, un nulla del Poi bilancio. uno prende una roba una Quando tanto, ma poi basta, Mi dice. arriva, capito, Letta che dice ho negoziato, possiamo sforare il 3%, cioè, voglio dire, come dire, ci hanno dato il permesso di indebitarci ancora di più, capito? Bella squerta, capito? Ma è un paese così indebitato, tra un poco noi con i BTP ci facciamo gli aeroplanini, capito? Cioè, il problema è che ve dobbiamo veramente calare l'indebitamento. E tutte queste manovre di dire le privatizzazioni sono balle perché non ci sono compratori, perché il Cos'è? mercato è statico, Cos'è? capito? Bella squerta sarebbe? Bella scoperta, Ah, bella capito? squerta. No, No, qua bisogna trovare. ogni 2 settimane vengono fuori cioè, facciamo le privatizzazioni, ma cosa privatizzi gli immobili che sono i più penalizzati fiscalmente? Ma chi li compra? Che non danno reddito, capito? Per cui l'unica cosa è incidere sulla spesa strutturale, la maggior parte delle pensioni sono basse e non si possono toccare, tocchiamo pure quelle alte che sono poche, ma bisogna incidere sul pubblico impiego. Cioè, beh, via i dipendenti pubblici, ma questa è Adinolfi, poi dopo scoppia veramente la rivolta qui. Cambiando anche il contratto ai dipendenti pubblici. L'altro giorno sono andato a fare una firma in comune, l'impiegato del comune è cominciato, era ancora 20 metri, a dire: ah, dottore, io non so se la posso fare. Non sapeva neanche di che cosa parlavo. Hai cominciato a dire: non so se la posso fare. Io avevo fatto la fila, era dopo Parlamento, quindi ne avevo approfittato per andare in comune prima di tutti, capito? Mi ha colto così. Adinolfi, qui il rischio poi di rivolta se si tocca i dipendenti pubblici c'è. Ma allora il tema è uno: troviamo degli scivoli, troviamo qualcosa, ma sono dove dobbiamo? Ma gli scivoli ti si cascano addosso, perché poi dopo quelli prendono la pensione, quindi il costo non lo chiudi. Il tema è: io sono convinto che la proposta Renzi sia sensata e i numeri non sono irrilevanti. In Italia non si sa, ma quelli che prendono più di 3.000 euro di pensione sono 460.000 persone, che non è proprio poco, eh? Sono 460.000 pensioni su un monte di 18 milioni di pensionati, che secondo me è un monte eccessivo. Ma cosa faresti tu, Adinolfi? Una roba, una tantum oppure un contributo fisso? Strutturale, cioè, strutturale. Il problema, il nodo purtroppo... Ma uno se l'è guadagnata però quella pensione lì. Attenzione, quelle sono in massima parte pensioni di dipendenti pubblici andati in pensione anche più di 30 anni fa, che con la rivalutazione arrivano a quei livelli. Se tu sei andato a pensione come succedeva una volta, con 15 anni, 6 mesi e un giorno di contributi, sei andato in pensione con una pensione bassa magari nel 78, ma avevi 39 anni, 40 anni, 41 anni, cioè adesso ti trovi con una pensione enorme, non sono pochi, cioè non sono pochi casi, la famosa riforma del contributivo, come sappiamo, è di meno di 20 anni fa. Cioè in realtà c'è un segmento di iperprivilegiati, a mio avviso, che assorbe dallo Stato reddito improduttivo. Chiedere a loro un contributo del 10% mi sembra sia veramente una cosa giusta. No, ma pare che rende miliardi, cioè non è vero che è irrilevante. No, pare che Renzi abbia mandato avanti il suo deputato Joram Gutgeld a proporre qualcosa del genere come proposta di legge alla Camera, e quindi Forchielli è una cosa che poi chissà cosa dirà la Corte Costituzionale. È quello il problema. L'unico nodo è normativo, non è che non ha valenza economica, soprattutto se poi fai con quei soldi l'unica cosa vera che bisogna fare. Perché una cosa, alla domanda tua, Alessandro, cosa deve fare il governo? Deve fare una sola cosa, ridurre le tasse sul lavoro. Tu a fine mese devi avere più soldi in busta paga, è quello che rimette in moto l'economia, non c'è nient'altro che può rimettere in moto l'economia, che è l'unica devi cosa... ridurre quello che si chiama il cuneo fiscale, devi prendere risorse e togliere tasse al lavoro, che è l'unica cosa che non fanno, è l'unica, Forchielli, questa è una buona idea, è quello che chiedono tutti, chiedono i lavoratori, chiedono le imprese, ma perché non si riesce a fare, Forchielli? Ah no, perché mancano i soldi, perché per ridurre il carico fiscale, che è assolutamente eccessivo, il carico sul lavoro, servono molti soldi. Io adesso, magari Adinolfi ha ragione, non sono così rilevanti le altre pensioni come dico io, e per cui, però secondo me si tratta di un ribaltamento strutturale fortissimo del bilancio pubblico. E non basta ridurre i soldi delle pensioni alte, secondo me, ossia, serve molto di più, perché non è un 1-2%, parliamo di un 10, capito? Perché io, quando alcune società che ho qui in Italia, se io dico ai ragazzi sapete cosa facciamo adesso, vi trasferisco tutti a Francoforte o vi trasferisco a Eindhoven, fanno i salti sul soffitto. Perché dicono: accidenti, capito? L'azienda costa molto meno e noi mettiamo molto di più in tasca. Questa è la verità. Capito? Lo so. Io ho molte di queste aziende giovani, piene di giovani, gli dico: ragazzi, ma domani mattina, capito? Però non ci sono i soldi per fare queste cose, che sarebbe un provvedimento. Per me, queste cose qui, che cui parla anche la Confindustria, richiedono molto, molto, molto di più. chiedono riaggiustamento strutturale ben al di là del, sì, del taglio delle pensioni oltre 3.000 euro, però posso sbagliarmi perché non è che io sia ragioniere dello Stato e neanche sia mai stato suo assistente. In tutto questo la politica cosa fa? No, la politica cosa fa? Ma leggete oggi il titolo di Repubblica, rimpasto e omofobia, il PDL attacca. Già un titolo del genere dici rimpasto e omofobia, ma che è? Voglio un rimpasto, il rimpasto, Brunetta ha detto ci vogliono più ministri del Popolo della Libertà, Epifani dice no, Letta dice voglio l'appoggio del PD, il rimpasto, la verifica, il tagliando, ma Forchielli, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Di queste cose parlano. Lo so, perché il problema è che la parte improduttiva del paese ormai ha la maggioranza nel voto del paese, cioè tra quelli che sono in pensione e quelli che non fanno un cazzo, questi sono la maggioranza, cioè il paese è tirato avanti da una minoranza e la minoranza che ha la capacità di tirare avanti il paese non ha peso politico, punto, e questo è l'impasse del paese. Quindi decidono quelli che non fanno niente, certo. Questo? Beh sì, certo, ossia dipendenti pubblici con la famiglia allargata, pensionati, c'è un paese di pensionati per cui tocchi pensionati si arrabbia il PD, tocchi pensionati alti si arrabbia il PDL perché sono voti loro, tocchi dipendenti pubblici si arrabbiano trasversalmente e alla fine, capito? Questo è. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, perché qua andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Oggi Forchielli si è fatto un qualche amico, tipo un 3, 4, 5 milioni di dipendenti pubblici che in questo momento li vogliono molto bene, eh? Rientriamo tra poco. 24 mattino. Ciao Alessandro, mi chiamo Enzo. Cosa andiamo a votare a fare quando abbiamo dei proclami di un presidente di Repubblica Sudamericana? Questi qui stanno salvaguardando la loro pancia, appunto, tutti assieme. Non ci possiamo permettere una crisi di governo, ha detto Napolitano, in tempi come questi. Ma non ci possiamo permettere, secondo me, un governo come questo. Non le pare? Io al posto suo diventerei pazza. Qualcuno da te ha detto che non dovremmo fare affari con quei paesi che non rispettano i diritti umani. Ottimo principio, per amor di Dio. Ma la pensano così anche gli americani, gli inglesi, i cinesi, i russi. Ma Alessandro, ti ho appena sentito dire la notizia che verranno dati 50.000 euro a famiglia per sgombrare un campo abusivo di Rom per l'Expo. A me sembrava che il proverbio diceva chi sbaglia paga e i cocci sono suoi. Invece qua si è trasformato in chi sbaglia viene pagato e i fessi siamo noi. Si potrebbe conoscere quanti dei nostri parlamentari siano titolari di una partita IVA? A me sembra che siano tutti uomini di parte ma senza arte. Le bravo le boom, ma schisce schisce del fiorente rum. Nessuna invidia per la stellina Locresto che arrampicando, sgomitando, imbrogliando, tradendo, per decenni sostenuto anche dai lombardi e Tognolino compreso, finalmente può tornare nelle stalle da cui proviene. Il bambino capriccioso Renzi ha dato ancora il meglio di sé e a questo punto credo che il Partito Democratico debba fare una scelta, cioè se farlo ragionare e quindi tappargli un attimino la bocca oppure buttarlo fuori, perché c'è gente che fa fatica a arrivare a fine mese, c'è gente che addirittura a fine mese non ci arriva e non ha voglia di avere rompicoglioni come lui che minano in continuazione questo governo. Vabbè, queste sono le voci della nostra segreteria, anche loro andranno in ferie tra 5 giorni. Mario Adinolfi, che succede in politica? Ma cosa succede? Il rimpasto. È dramma, questa è veramente la cosa più tremenda. La incapacità di comprensione del dramma in cui siamo è la totale, è l'unica passione del ceto politico italiano che è il gioco di se stesso. È sempre quello, insomma. I due temi che piacciono sono nel PDL, appunto il rimpasto che c'è qualcuno assedato di posto da ministro, lo sappiamo da tempo, nel PD il congresso, sono questi i due grandi temi. Sarà il gran congresso, congresso del 2013, lo ricorderanno così. Vedremo tutto quest'estate le dinamiche del PDL, di quelli che vogliono andare al governo e quindi fanno i falchi perché così qualche spazio si apre, e tutta la bellissima vicenda congressuale del PD, in cui, insomma, ma poi il PDL cos'è che ha chiesto? Blocchiamo, facciamo una moratoria sui temi etici, che uno così scopre che stavano parlando di temi etici, perché, perché se uno chiede una moratoria vuol dire che allora stavano parlando di temi etici, non lo so, ma quali sono? Non lo so, vabbè, questa roba da matti, sì, roba da matti. Volevo dire a Forchielli una cosa, 29 milioni di italiani, grazie a Dio, sono nati dopo il 1970. Io dico, Renzi ha tanto successo anche perché una speranzella, diciamo così, che nasca da quel blocco di italiani nati dopo il 1970, quindi che in gran parte non sono dipendenti pubblici e certamente non sono pensionati, secondo me c'è, insomma, l'unica lieve speranza che di blocco sociale alternativo che vedo in questo paese rispetto a quello che lui dice, che è vero che il blocco sociale al potere è quello fatto da sostanzialmente pensionati, impiegati pubblici e loro famiglie, che purtroppo sono maggioranza. Però la speranziella, A proposito di Renzi, Forchielli, l'altra volta, Renzi è stato un po' sconfitto, è lo sconfitto di questa settimana, è stato un po' placato? Ma quel che avevo da dire su Renzi l'ho già detto, capito? Sì, anche abbastanza efficace. Per avvicinarsi a Renzi ci vuole sia l'antivipera, e le proposte sono populistiche oppure non ci sono, è un ragazzo dalla battuta pronta, non ha esperienza, io per cui non... E che facciamo, ci teniamo questi qua allora? Ma vediamo, a Firenze non si lamentano, però tutto sommato. Sì, voglio dire, proviamo anche a Rettile, che più tanto abbiamo avuto tanti quei licaoni a Palazzo Chigi, che uno più uno meno, non è che faccia tanta differenza, capito? Ne abbiamo cambiato uno ogni 11 mesi per gli ultimi 65 anni, sai, avercene un altro, non è che poi mi butti giù per il fiume, capito? Però adesso starvi a raccontare che Renzi cambierà l'Italia. Cioè, ci vuole spessore, bisogna conoscere il mondo, bisogna conoscere tante robe, insomma. Non mi sembra che abbia né l'esperienza e né la gente adatta intorno a lui. E dai discorsi che fa delle battute, insomma, capito? È più un format televisivo che un uomo politico. Per me un uomo politico è uno che porta avanti delle idee, combatte sulle sue idee, vince o perde sulle sue idee. Ma non piace, più un battutista. E vede il raggiungimento del potere come un supremo sacrificio, capito? Non è che uno antepone il raggiungimento del potere e la propria ambizione a tutto il resto, è proprio sbagliata l'equazione. È il punto di partenza. Io però voglio farvi sentire questa, allora, Adinolfi, al di là di Renzi, possiamo dire forte Giorgio Napolitano? Perché pare che non si possa dire ogni tanto. Hai sentito cosa è successo al Senato? È una cosa gravissima. Sentiamo il capogruppo al Senato Nicola Morra, che cita, del Movimento 5 Stelle, cita Napolitano al Senato, e il Presidente del Senato, Grasso, lo ferma, dice: lei non può nominare Napolitano. Ma come non può nominare? Sentite. Ieri però è intervenuto nel dibattito politico chi sta sul Colle, a dimostrazione del fatto che... Scusi, non sono ammessi riferimenti al Capo dello Stato. Lasciamolo fuori da quest'aula. È già il primo richiamo, sono ammessi riferimenti al Capo dello Stato. Uno dice, che vuol dire non sono ammessi? Il Capo dello Stato è uno che non fa parte dell'Italia. Ma sentite. Per cui per noi tutto questo avviene in trasparenza, se poi sbaglierò dovranno essere i cittadini a valutare. Il nostro Presidente della Repubblica è invitato a lasciarlo fuori. È invitato a lasciarlo fuori. Lo cito. Ma perché? Lei non può citarlo. Ma come? Adinolfi non può citarlo. È una cosa incredibile perché? Perché è di un'ignoranza, questa proprio ignoranza della norma, del regolamento del Senato, delle prerogative del parlamentare, che uno dalla seconda carica dello Stato non se l'aspetta per niente. Fossi stato Morra, l'avrei azzannato, insomma, ma come ti permetti? Adinolfi ha cantato l'inno d'Italia. Ho fatto richiamare certo. In tutte le maniere possibili, ma dai presidenti d'aula, figurati se tu mi dici non puoi citare Napolitano che ti combino. Cioè, ovviamente le prerogative del parlamentare sono quelle della libertà di parola, sì. E se non offende, certo, se avessi offeso Napolitano poteva intervenire questo il presidente d'aula. Non si può citare. Assolutamente. Non sono consentite citazioni napolitane, è la follia dal punto di vista giuridico, che mi aspetto da Schifani, non da uno che ha fatto il procuratore e che quindi qualche nozione di diritto pubblico dovrebbe averla, insomma, qualche nozioncina di diritto pubblico non si può citare, non si può citare, che dobbiamo fare? Quindi, diciamo Giorgio, qui in radio si può, Giorgio Napolitano, capo dello Stato, si può fare. Due cose ancora per chiudere. Forchielli, ieri era il compleanno di Beppe Grillo, forza, anche se siamo con un flashback, un bel augurio a Beppe Grillo da Forchielli. Bello, bravo, Beppe Nazionale. Dove è andata a finire Stiglitz, la decrescita felice? Ma ancora sta. No, voglio dire una cosa, c'è un paese dove non si può mai menzionare il capo dello Stato, sì. E questa è la Cina, dove non è mai possibile scrivere nulla riferendosi al capo dello Stato. E difatti, ma anche in bene, difatti gli unici articoli miei che vengono censurati in Cina sono quelli dove io dico Xi Jinping o Hu Jintao, ma che io dica bene o che io dica male. Cioè ci prova Forchielli, allora, ma glielo censurano. Mai, cioè, ma non importa, fare complimenti. Per cui nei blogger, sapete che nei blog, e quindi i blogger ricorrono a soprannomi. Certo. Io propongo uomo Orzoro. Uomo? Orzoro. Ma per chi? Ma per chi? Non si sente. Dopo Grasso, Grasso mi fa un'inchiesta parlamentare. Uomo Orzoro. Chi è l'uomo Orzoro? Uomo Orzoro. Per quello vai lì. A studiare, ecco, vai a studiare. Va bene. Vabbè, ma gli auguri a Beppe Grillo allora non li fa. Ma cosa vuoi che gli faccia? E lo ritengo un minus habiens, capito? Ha fatto più danni lui all'Italia di quanti ne abbia fatti quasi Mussolini, perché ha creato un consenso incredibile che politicamente non è stato sfruttato, avremmo potuto avere un altro, ma lasciamo perdere. Esatto, potevano essere degli auguri un po' più sfumati. È un coatto. Vabbè, potevano essere auguri un po' più sfumati. Comunque mi fermo qui, grazie a Mario Adinolfi e Alberto Forchielli. Noi venerdì si va in ferie, chissà se ci risentiremo nel Parlamento questa settimana, intendo. Intanto vi faccio tanti auguri, grazie, il Giornale Radio. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:15 minuti, siamo ritornati, pronti a leggere i giornali con voi per la rassegna stampa. Vi ricordo gli ospiti. Oggi avremo il ministro alla difesa, Mario Mauro. Sarà con noi dalle 8:30 alle 9 per parlare di tanti temi attuali, di attualità politica, di governo, ma anche gli F-35, l'Afghanistan, i nostri Marò in India, insomma tanti temi che vogliamo trattare col ministro Mauro. Avremo ospite anche prima alle 8:15 Nico Stumpo, che è un deputato del PD, è un po' un anti-renziano, così almeno viene dipinto dai giornali. Poi uno di quelli che ha firmato un emendamento strano, quello dell'incompatibilità. Non cancella, ma rinvia l'incompatibilità tra deputati e sindaci, se si è sindaci di un comune sopra i 5.000 abitanti, e dovremo chiedergliene conto. E intanto, allora, da cosa partiamo? Partiamo dai temi che trovate sviluppati dai giornali, andiamo a leggerli. È lunedì 22 luglio. Come scrivo su Twitter, è iniziata ufficialmente la 12ª settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché la 12ª settimana decisiva per l'abolizione delle province. Ce la faranno in questa 12ª settimana? Chi lo sa? Intanto i titoli. Il Sole 24 Ore apre sulle tasse comunali, parte dalla Tares, la corsa ai rincari, e sono cattive notizie poco prima per qualcuno delle vacanze. Da Milano a Bologna aumenti anche sugli autobus, i biglietti, ritocchi per le addizionali, ritocchi per l'imposta di soggiorno, le tasse locali aumentano. Per il Corriere della Sera, taglia la politica, no dei partiti, ci si concentra nel titolo di prima pagina su questa legge che vuol modificare il finanziamento pubblico ai partiti, per la quale i partiti stessi hanno presentato 150 emendamenti. La Stampa, IMU solo sulle prime case di lusso, è un'intervista al ministro degli affari regionali Delrio, resta da decidere se si pagherà già nel 2013, l'annuncio del ministro. Per Repubblica invece la politica, rimpasto e omofobia, il PDL attacca. Il Giornale invece fa una classifica che vedremo quasi subito, i 50 manager più pagati d'Italia, e questo è il titolo di prima pagina. Il Messaggero, anche il Messaggero sull'IMU verso una tassa unica, questo è il titolo, mentre l'Unità, ritorsione PDL via Saccomanni, la battaglia per il rimpasto. Il Secolo XIX invece, Genova capitale delle slot, che è un po' il titolo anche del Fatto Quotidiano del lunedì, che è un'edizione monografica dedicata in questo caso a cattedrali del vizio d'azzardo, proprio l'elenco delle aziende e delle slot, insomma dei posti dove si gioca con il gioco d'azzardo legalizzato. Io però voglio partire proprio subito dalla prima pagina del Giornale per questo titolo di prima pagina, i 50 manager più pagati d'Italia. Io dico subito, cari ascoltatori, magari state andando a lavorare, io ve la leggo la classifica con una promessa, però non arrabbiatevi, non prendetela nel modo sbagliato, cioè quella di leggere i compensi dei 50 manager più pagati d'Italia e dire ecco, io questi soldi non li metterò via neanche in 5 vite. Se metto insieme 100 amici, se metto insieme 18 lavori, è così. Non è che dovete vivere pensando che tutti si debba guadagnare allo stesso modo. Ecco i manager più pagati d'Italia. Per il Giornale è messa come la lotta alla casta, lo scontro sui privilegi. Pagina 3 del Giornale, Gian Maria De Francesco. 50 milioni di euro, circa 100 miliardi di vecchie lire, il maggior compenso ricevuto nel 2012 dai 100 principali dirigenti delle società italiane quotate in borsa rispetto all'anno precedente. I salari sono stati peraltro elaborati da un'analisi del Sole 24 Ore, sono ammontati a 402 milioni di euro a fronte dei 352 milioni del 2011, è ripreso tutto dal Giornale con questa classifica, eccola qua la classifica, Sergio Marchionne al primo posto, 47 milioni e 901 mila euro. Al secondo posto Luigi Francavilla, vicepresidente di Luxottica, 28 milioni 803 mila euro, di cui 5 milioni erotti in azioni. Vabbè, ci sono anche poi appunto dei dettagli. Al terzo posto Federico Marchetti, presidente e amministratore delegato di Yoox, 22 milioni 612 mila. Al quarto posto Roberto Chemello di Luxottica. Al quinto posto ancora Luxottica, amministratore delegato Andrea Guerra con 14 milioni 422 mila. E poi si va avanti i primi 50 posti. Ripeto, leggetela se volete. Però non arrabbiatevi, magari arrabbiatevi di più quando leggete queste due o tre notizie che vi do dai quotidiani, che sono le classiche notizie da mani sul volante strettissime, a partire dal Corriere della Sera, pagina 2. Se tarantella power si paga con risorse dell'Unione Europea. Luigi Offeddu sul Corriere a pagina 2 racconta A che cosa sono serviti in parte i fondi dell'Unione Europea utilizzati in Italia. Beh, è una stravagante lista degli eventi che ottengono contributi da Bruxelles. Direi che stravince quell'iniziativa del 2008 in cui la Regione Sicilia voleva discutere, pensate, di come venivano impiegati i finanziamenti di Bruxelles. E perciò si riunì e si fece un convegno, e per il ristoro di tutti venne fatto un servizio di welcome coffee lunch buffet pagato per metà dai soldi dell'Unione Europea. Beh, questo è straordinario. Discutevano su come vengono utilizzati i fondi dell'Unione Europea in un convegno in parte pagato dall'Unione Europea. E allora, tra le pieghe dei fondi europei, poi che cosa c'è? Il 4 marzo 2010 ad Agrigento un seminario sulle città siciliane, motore dello sviluppo regionale. Allora si distinse, secondo i quotidiani, anche la carovana di auto blu dell'allora presidente della regione Lombardo. 23.000 euro, quasi la metà pagati da fondi europei. E poi la manifestazione Tarantella Power a Catanzaro. Due stanziamenti da 45.000 euro all'anno e uno da 43.000 euro nel 2009. Luoghi di magia, magia nei luoghi. È la manifestazione di Crotone nel 2012, 306.000 euro di finanziamenti con pagamenti pubblici europei. Ancora, tutto questo. Per esempio c'è la manifestazione Dalida tra cultura e arte, promossa dall'associazione Yolanda Gigliotti in arte Dalida, manifestazione che nel 2010 arriva a 26.300 euro di contributi pubblici. Ma Dalida era nata al Cairo, e lo so, è morta a Parigi, e lo so, ma i genitori erano di Serra Stretta, e così la manifestazione si tenne lì con fondi europei. Evviva, evviva i fondi europei utilizzati per iniziative di sicuramente scopo sociale e molto diffuso. Pagina 2 del Corriere della Sera. E ancora, leggete questa sul Messaggero e poi ditemi se non c'è da strizzare quel volante al quale siete aggrappati con le mani. Il caso a Napoli, assenteismo, un bimbo faceva il palo al padre. La notizia non è dell'assenteista, la notizia non è del padre assenteista, purtroppo sono cose che capitano in Italia. La notizia è che un padre aveva messo un bimbo, suo figlio, di 7 anni, a fargli da palo, cioè fare l'assenteista e dire al bambino di 7 anni: controlla, controlla, che se arriva qua qualcuno bisogna subito avvertire. Ebbene sì, blitz al comune di Napoli, 15 dipendenti agli arresti domiciliari, scrive il Messaggero con Leandro Del Gaudio, un po' spaesato, un po' incuriosito, a tratti anche divertito, pensate. Stava lì in attesa, ogni tanto da una sbirciata verso i locali che portano all'esterno, poi rivolge lo sguardo al padre, osserva il lavoro, tra virgolette, del genitore, che sembra invece darsi un grande affare lì con quel cartellino marcatempo a strisciare sulla scatola magica, quella destinata a segnare l'orario d'ingresso di chissà quanti impiegati comunali. Una presenza discreta, il ragazzino, no, non di 7, ma di 11 anni, immortalato da una telecamera nascosta nel palazzo comunale di Napoli, dove di recente sono stati arrestati 13 dipendenti municipali più un'impiegata di Napoli Servizi, una sorta di recordman del badge clandestino. Se lo son chiesto anche gli inquirenti, ma chi era quel ragazzino che stava lì immortalato dalle telecamere, spaesato, incuriosito, che finita la scuola era lì a fare da palo, un po' divertito a vedere il padre che si affatica a smanettare con quelle tessere magnetiche. Ed eccola lì l'inchiesta per truffa condotta dal pool Mani Pulite. Parziale ammissione da parte di qualcuno, vengono scarcerati tutti i 15 indagati. E chissà, ovviamente non verranno licenziati, se verranno mai licenziati ci sarà un giudice di lavoro che li reintegrerà e così via. Andiamo avanti, e questo ragazzino di 11 anni chissà che avrà imparato di come educazione dal padre, no? Chissà che bello, con quale spirito civico crescerà, no? A 11 anni, evviva! Vabbè, vi dico questa, poi vi lascio la pubblicità per qualche minuto. Sappiate dal Sole 24 Ore, pagina 8, che indovinate quante leggi hanno prodotto le Camere in questi primi 12 settimane di legislatura? Il lavoro delle Camere, poi si dice le critiche, eccetera, varate solamente 8 leggi, di cui 4 sono semplicemente conversioni di decreti legge, e dunque decreti legge del governo, si tratta di convertirli entro 60 giorni. Ecco, quindi di fatto iniziativa legislativa delle Camere, 4. Inizio legislatura al rallentatore. Roberto Turno, pagina 8. Tra fine luglio e primi d'agosto l'atmosfera politica in Parlamento è destinata a surriscaldarsi e ad accrescere il misero bottino di leggi incassate dall'avvio a metà marzo della legislatura. Sono state infatti appena 8, per metà appunto sono conversioni di decrete legge, tutto questo dopo 128 giorni dall'insediamento delle Camere, ma dopo 85 giorni dalla nomina del governo guidato da Enrico Letta. Un bottino non esattamente da primato, a dimostrazione delle complicazioni di questi mesi, scrive il Sole 24 Ore. 8 leggi, di cui 4 di conversione di decreto legge. C'è la crisi, cari italiani, c'è la crisi. Non per tutti, eh. Sappiate che Repubblica ci informa, a pagina 16, che è stato appena varato Azzam. E dice, che minchia è Azzam? È Azzam. Azzam è lungo 180 metri, ben 2 campi di calcio, appartiene a un emiro, surclassa di record lo yacht di Roman Abramovich, è lo yacht più lungo del mondo, è privato, e c'è crisi, ma non per tutti. Viva l'emiro, il principe saudita Al-Walid bin Talal e il suo Azzam, 180 metri. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Le 7:32 minuti, siamo qui pronti a leggere i giornali e a continuare a leggere i giornali. Allora, in questa situazione di crisi, di economia un po' che vedremo tra poco, provvedimenti annunciati di cui si discute, l'IMU, l'IVA, le tasse, soprattutto le tasse locali che aumentano. In tutto questo la politica cosa fa? Beh, guardate, io poi vengo criticato spesso a dire ma la politica la dipingi sempre come qualcosa che non combina nulla. Ma guardate, vedere il dibattito oggi dai giornali c'è da mettersi le mani nei capelli. Il rimpasto di governo, il tagliando, la verifica. Brunetta dice il PD ha più ministri del PDL. Cioè, questo è il tormentone che, come scrive il giornale, terrà banco durante l'estate. Avete capito? Il tormentone dell'estate. La questione del rimpasto, della verifica, del tagliando, ci sarà il rimpasto oppure no? Ma vi rendete conto se queste debbano essere le preoccupazioni, secondo gli italiani, della politica, le preoccupazioni primarie? Eppure così, il PDL respinge l'attacco alla poltrona di Alfano, ci spettano più ministri, questo è il titolo a pagina 7, Gasparri al premier la guida dell'economia, vogliono togliere a Sacco Manni la guida dell'economia, infatti l'Unità titola così in prima pagina, ritorsione del PDL, via Sacco Manni, la risposta dei falchi a Epifani, se il caso Alfano non è chiuso vogliamo più ministri, se non ci date più ministri che facciamo? Bloccare le leggi, la discussione delle leggi sulle norme etiche, ma vi rendete conto? Cioè, ci rendiamo conto se questo è il dibattito che la gente si attende dalla politica e non invece il trovare le risorse economiche, risolvere i problemi del lavoro, tagliare le tasse sul lavoro, farci capire una benedetta volta che succederà questo, a questa IVA, a questo IMU. No, invece si dibatte di queste cose. Il centrodestra, guardate il titolo di pagina 7 della Stampa, è uno spettacolo. Il centrodestra teme lo spettro delle maggioranze variabili. Nell'orizzonte, scrive Fabio Martini nella sua retroscena, nell'orizzonte continuamente cangiante del governo Letta è apparso un nuovo fantasma, quello delle maggioranze variabili. E proprio a questo scenario allude l'iniziativa delle 4 personalità del PDL che hanno proposto una moratoria legislativa sui temi etici. Tradotto in soldoni, Maurizio Lupi, Maurizio Sacconi, Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna chiedono al PD di congelare per il resto della legislatura tutti i provvedimenti divisivi, hanno detto divisivi, sui temi della famiglia, una richiesta che però se ne porta dietro un'altra, persino più impegnativa, su queste tematiche, caro PD, rinuncia a fare accordi e maggioranze anomale con partiti di opposizione, nel caso specifico 5 Stelle e SEL. E uno legge un articolo del genere, non che non sia importante la politica e cosa si muove attorno alla politica, e dice ma siamo impazziti. Guardate qui, pagina 6 del Corriere, Letta chiede la fiducia, tra virgolette, al PD e blinda Saccomanni, non si tocca. Il premier domani sarà davanti a tutti i politici, di deputati e senatori del Partito Democratico, e racconta quest'articolo del Corriere della Sera, vuole una fiducia certa, nella testa del presidente del Consiglio non c'è alle porte alcun rimpasto, né soprattutto dopo l'intervento del Presidente della Repubblica di qualche giorno fa. Il Premier ha intenzione di tornare sul caso Kazakistan. Se c'è però una cosa che sta a cuore a Letta è il volersi a tutti i costi presentare all'appuntamento virtuale con la sentenza della Cassazione su Mediaset, con una blindatura del suo stesso partito, con un sì pieno e rinnovato all'azione di governo che il Premier punta a incassare prima il confronto con i deputati e poi al parlamentino del PD in agenda venerdì prossimo. Questa è un'altra preoccupazione di Letta. Oppure c'è quella di Berlusconi. Berlusconi, in un retroscena di Repubblica, pagina 3, avrebbe detto ai suoi: Alfano ha combinato un bel guaio. Ora alziamo la posta per bloccare Epifani. Questo è il titolo di pagina 3 di Repubblica di oggi, in retroscena di Francesco Bei. Una confidenza sorprendente avrebbe fatto Berlusconi ai suoi, ed è questa: con questa faccenda del Kazakistan, Angelino mi ha combinato un casino proprio quando ne avevo meno bisogno. È iniziato così sabato un lungo sfogo telefonico che uno degli esponenti più in vista della maggioranza tripartita ha raccolto dalla viva voce di Berlusconi. Non solo perché questo casino l'ha vulgata da subito attribuito al cavaliere la regia occulta dell'affare Shalabayev per fare un favore al suo amico Nazarbayev, ma è stupefacente rispetto alla difesa a tutto tondo che Berlusconi ha fatto ad Alfano. Invece questo avrebbe detto come sfogo, e cioè in prima del 30 luglio con la sentenza della Cassazione che arriva, di tutto avevo bisogno, avrebbe detto Berlusconi, tranne che di un casino del genere. Ed ecco allora l'imperativo. È questo, ha ordinato ai falchi di tacere, non fare nulla, non provocare scosse finché non sarà più chiaro il suo destino processuale. Cioè, la politica si interroga e si dibatte su queste cose. Per carità, è il qualcuno può dire il nulla, altri possono dire è la parte principale, se si vuole tirare a campare, come in democristianamente si diceva. Il risultato è che cose concrete, da almeno oggi dai giornali non se ne vedono. Il dibattito è tutto su: ci vorrà rimpasto, non ci vorrà rimpasto, siete più ministri voi di noi, gne gne gne gne, e quindi va cambiato tutto, e questo è un punto di vista. D'altra parte, l'altra notizia che trovate sui giornali è l'intervista che Gianluigi Nuzzi ha fatto a Gianroberto Casaleggio. Gianroberto Casaleggio, il guru, così viene definito, del Movimento 5 Stelle, è già la terza intervista. Qualcuno fa notare che questo porta a pensare che Casaleggio stia cominciando anche ad avvicinarsi alla comunicazione, cioè mettendo la faccia, mettendo il volto, facendo le interviste. Quello che è finito sui giornali in questa lunga intervista che Gianluigi Nuzzi ha fatto a Casaleggio, che cos'è? È la frase: Casaleggio evoca la piazza, la mette così il giornale, sta per scoppiare una rivolta. Noi l'abbiamo fatto sentire alle 6:30, non è che proprio ha detto così, ha detto: temo che ci sia uno shock economico che possa portare o a un cambiamento della rappresentanza, anche dei partiti, eccetera, oppure temo che possa portare anche a rivolte sociali, e dunque un qualcosa di quello che viene definito sempre l'autunno caldo. Ci sarà questo autunno caldo? Casaleggio per Repubblica: sarà un autunno di rivolte, il paese rischia lo shock economico e io lascio se si fa un'alleanza Movimento 5 Stelle PD. Non siamo in crisi, dice il guru dei 5 Stelle, i sondaggi mentono. Fa sapere il Secolo XIX che effettivamente questo cambio di strategia di Casaleggio è abbastanza evidente. Ilario Lombardo, pagina 2 e 3: Casaleggio trova la voce, affianca Grillo, inizia la fase 2 del guru con un menù catastrofico in autunno, shock economico, disordini sociali. Il cofondatore del Movimento 5 Stelle aumenta l'impegno e presenza mediatica. Secondo i suoi più stretti collaboratori, nonostante lui sia uno molto scettico e non si fidi di nessuno, l'obiettivo è quello di portarlo a porta a porta. Scherzano i suoi collaboratori, ma non troppo. Casaleggio inizia a parlare, ecco un'altra preoccupazione della politica. Quando c'è invece da fare una cosa, come per esempio quella del finanziamento pubblico ai partiti, modificare la legge, e che succede? Oggi si concentra su questo il Corriere della Sera nell'apertura, sono arrivati 150 emendamenti per bloccare o modificare la legge voluta dal governo sul finanziamento pubblico ai partiti. Di chi sono questi emendamenti? Dei partiti stessi, ovviamente. Taglia la politica, il no dei partiti, pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Ovviamente ci sono i tesorieri in rivolta, uno è Maurizio Bianconi, che è spesso anche nostro ospite. Io non ho paura per me, ma ho paura per la democrazia, perché questa è una legge sbagliata, ipocrita e piena di sciocchezze. Ma siamo rimasti ormai solo io e Peppone a pensarla così. Peppone è Ugo Sposetti, invece, l'altro del PD, ex tesoriere dei DS, anche lui a dire... è un attacco alla democrazia. Il Corriere della Sera si concentra sul fatto dell'inefficacia della politica su questo, il finanziamento pubblico ai partiti. Mentre udite, salto alla Stampa, pagina 3. Io l'ho detto che è iniziata la 12ª settimana decisiva anche per l'abolizione delle province. Ma il titolo è un'intervista al ministro Del Rio, Affari Regionali, fatta da Alessandro Barbera, e c'è: per l'IMU l'accordo è vicino. A capo, province abolite dal 2014, cari ascoltatori. Eccolo qui l'annuncio del ministro Del Rio in questa intervista alla Stampa. Sarà la volta buona. Province abolite dal 2014. Così l'annuncio sulla Stampa. Prima Del Rio parla per la verità dell'IMU. E la novità IMU arriva dal nuovo catasto. Anche qui, dice Del Rio, speriamo sia la volta buona. L'orizzonte non è comunque brevissimo. Tutto dipende dai tempi di attuazione della delega fiscale. Ciò che conta è aver deciso di far procedere pari passo questa riforma a quella dell'IMU, che arriverà prima. In attesa delle nuove rendite stiamo cercando di mettere a punto una soluzione che non crei disparità. Un esempio: le abitazioni di lusso, quelle di categoria A8 e A9, che continueranno a pagare l'IMU sulla prima casa, oggi sono solo lo 0,1% di immobili. Chiede Barbera della Stampa. Le indiscrezioni dicono che non pagheranno l'IMU sulla prima casa circa l'85% delle famiglie. Avete trovato un accordo? Ci siamo vicini, dice Del Rio. Pensiamo di tener conto anche dei valori dell'osservatorio immobiliare e del numero dei vani, visto che la nuova IMU dovrà incorporare la vecchia TARES. Resta un dubbio: le nuove regole si applicheranno solo dal 2014 o riguarderanno anche il pagamento dell'ultima rata di dicembre? Su questo nella maggioranza non c'è accordo, dice la Stampa. Il PDL vuole che quest'anno non si paghi nulla. E che ne sarà dei comuni? Come faranno a chiudere i bilanci? Il governo darà compensazioni? Risponde il ministro Del Rio: posso dire che tutto quello che lei dice è vero, che questo è un punto decisivo sul quale c'è dibattito aperto, spero si trovi una soluzione ragionevole. Insomma, non dà una risposta su questo, ma faremo, vedremo, cercheremo un accordo. E poi la parte sulle province. Io porterò venerdì in Consiglio dei Ministri un altro disegno di legge che accompagnerà quello costituzionale di abolizione delle province, ancora più snello. Non è prevista nessuna elezione per me. Le province altro non saranno che organi gratuiti nei quali sindaci con più di 15.000 abitanti e quelli rappresentati nell'Unione dei Comuni più piccoli si riuniranno per pianificare alcune funzioni essenziali, gestione dei rifiuti, scuole, trasporti, queste cose qui. A questi enti resterà esclusivamente la gestione diretta delle strade provinciali. E anche la Stampa un po' scettica: sarà la volta buona, ministro, chiede, sarà la volta buona, sarebbe il quarto tentativo andato a vuoto. Se il disegno di legge viene approvato, è cosa fatta. risponde Del Rio. Ci sono già 30 province commissariate, gran parte delle altre è in scadenza nel 2014. Tanto che Barbera della Stampa chiude così: le crediamo sulla parola. Rimane solo da credere a questo, l'abolizione delle province dal 2014. Crediamo sulla parola al ministro Del Rio. Dopo il traffico, l'IMU ancora, l'economia, le liberalizzazioni, il piano dei renziani di toccare le pensioni sopra i 3.500 euro. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. E intanto, mentre si discute di IMU, qua le tasse aumentano, le tasse, soprattutto le tasse locali. Qualche giorno fa il Sole 24 Ore aveva fatto questa analisi di come il federalismo aveva portato a un aumento esponenziale dal 1970 nelle regioni delle tasse locali. Ieri anche il Corriere della Sera si è buttato a pesce su questa notizia. Le tasse, ancora oggi sul Corriere della Sera c'è un'analisi di queste tasse locali, c'è anche un'intervista al presidente dell'ANCI, nonché sindaco di Torino, Piero Fassino, che è intervistato da Mario Sensini, a pagina 10 del Corriere, dice: i comuni non sono parassiti, le tasse, è vero, sono aumentate, ma mai quanto i tagli del governo centrale. Negli ultimi 4 anni le risorse trasferite ai comuni sono scese di 9 miliardi, mentre le imposte municipali sono salite di 5,5 miliardi. Sì, bisognerebbe dire, è vero, sarà anche vero questi numeri, ma non è che le risorse del centrali di meno 9 miliardi sono state tolte dalle tasse degli italiani. Caro Fassino, questo si potrebbe dire, cioè è vero, i comuni, dice, ci hanno tolto 9 miliardi, mentre abbiamo aumentato solo 5,5 miliardi di tasse a fronte di 9 miliardi in meno di entrate dal governo centrale. Ho capito. Ma questi 9 miliardi non sono stati redistribuiti ai cittadini, quindi i cittadini si ritrovano con 5,5 miliardi di tasse in più, questo è il dato di fatto. Magari qualche spreco c'era, chiede Sensini, ma non si può sempre vedere tutto come uno spreco, dice Fassino. A Torino in 2 anni abbiamo razionalizzato le risorse, bloccato il turnover, ricontrattato forniture e salari, razionalizzato la spesa. In questi ultimi anni i comuni hanno azzerato il loro deficit, dato un contributo netto al risanamento dei conti pubblici. Insomma, tutto a posto. Sta di fatto che anche sul Sole 24 Ore, pagina 2-3 del titolo di prima pagina, le tasse comunali parte dalla TARES, la corsa ai rincari. Il governo studia la riforma del prelievo sulla casa, scattano i primi rincari di tasse e tariffe comunali, carnet ricco di aumenti, ce n'è per tutti, signore e signori, le addizionali IRPEF, l'imposta di soggiorno, i biglietti sull'autobus, la tassa sui rifiuti. Questo li trovate tutti dettagliati a pagina 2 e 3. Gli aumenti dei comuni non si fermano alla TARES, le prime bollette scatenano le proteste, ma attenzione, si prepara un'altra raffica di rincari. Pagina 2 del Sole, non solo TARES, nel carnet di rincari ci sono anche le aliquote IMU, gli aumenti dei biglietti, per esempio già deliberati a Bologna, allo studio a Milano, dell'autobus e della metropolitana. A Milano la tassa sui rifiuti è una diretta conseguenza di una legge nazionale, mentre gli altri ritocchi somigliano a percorsi obbligati per la maggior parte di sindaci costretti a far fronte del taglio ai trasferimenti dello Stato. Eccolo lì, sempre lì, lo Stato non ci dà più soldi, che però lo Stato non è che li dà ai cittadini, lo Stato non ci dà più soldi e quindi noi dobbiamo aumentare le tasse. Risultato, cari cittadini, non avete i soldi dallo Stato, ma dovete pagare più tasse ai comuni. Questo in estrema sintesi. Intanto il governo, scrive Repubblica, caccia i 5 miliardi per superare l'IMU e stoppare l'IVA. Questo è un titolo su Repubblica, pagina 8, che si ripete ogni giorno su un giornale diverso, a caccia di tot miliardi. Mentre un'altra vicenda che si ripete da 20 anni, ma oggi il Messaggero la rilancia, pagina 3, il dibattito sulle privatizzazioni. Una partita da 135 miliardi, secondo la politica, il ministro Saccomanni starebbe riflettendo sull'ipotesi di cedere quote di società pubbliche, in particolare non si riferiva a Eni, Enel e Finmeccanica, ma resta il fatto che il governo ci sta pensando e si tratterebbe di una partita di 135 miliardi di partecipazioni che si potrebbero privatizzare. Mentre Renzi, che cosa sta pensando? Renzi sta pensando all'assalto delle maxi pensioni. Questo almeno è il titolo della stampa, pagina 5. Raffaello Masci: chi prende una pensione con il sistema retributivo superiore a 3.500 euro al mese, è giusto che dia un contributo di solidarietà. Lo ha detto in un passaggio nell'ultima intervista che ha fatto con Enrico Mentana, 3 giorni fa, prima del silenzio stampa, ma è una frase, una frasetta buttata lì che è passata un po' in silenzio, ma in realtà la proposta starebbe per essere concretizzata, per esempio, in Parlamento dal renziano Gutgeld, onorevole Joram Gutgeld, che sta pensando a chiedere un sacrificio del 10%, ma strutturale, e anche il blocco dell'indicizzazione per chi riceve più di 3.500 euro l'anno. Euro al mese di pensione, la pensione di 3.500 euro. Una stima porterebbe a un incasso di 4 miliardi da parte dello Stato. L'unico dubbio del PD è: ma è tutto costituzionale? Sarebbe costituzionale una cosa del genere? Perché la Corte Costituzionale ovviamente incombe in questi tipi di casi. Va bene, questa è l'economia. Veniamo alla cronaca, altre notizie. La notizia più interessante che ho trovato, a parte la notizia politica ed economia, riguarda Repubblica, è messa in prima pagina, riguardo lo IOR, la Banca Vaticana. 20 inquisitori in Vaticano, così cercano la verità sullo IOR. Secondo Repubblica, il Papa vuole vederci chiaro. Paolo Rodari, vaticanista di Repubblica, scrive: niente più come prima nel torrione di Niccolò V, la sede dello IOR, la Banca Vaticana. La mossa, effetto del presidente Ernest von Freiberg, è un messaggio lanciato all'interno. A cosa ha voluto il presidente? Ha voluto che nel suo grande ufficio si insediassero 20 inquisitori della società americana di consulenza finanziaria Promontory, incaricati di scandagliare uno per uno i conti attivi all'interno della stessa banca. Un'operazione di trasparenza nella quale dipende il futuro di tutto lo IOR. Pensate che, racconta Repubblica, questi giovani ragazzi, appena un intruso entra nella loro grande stanza, hanno l'ordine di spegnere i computer per non far vedere cosa stanno facendo. Nessuno, a parte loro, deve vedere. E presto verrà presentato un rapporto su tutti i 1.500, con una visione di 1.500 conti visionati ogni mese, un report finale su tutti i conti dello IOR. Per Repubblica, che dedica poi 2 pagine all'interno, è l'ora della verità per lo IOR. 20.007 finanziaria caccia dei conti sospetti. Cosa bisogna dire prima del premio La Carta Costa? Beh, che David Cameron, premier inglese, ha imboccato una crociata particolare contro la pornografia. Ha fatto un appello ai motori come Google, ma anche come Yahoo, come Bing: un freno al porno o vi blocco per legge. Oggi ci sarà il discorso del premier inglese, che viene anticipato da Fabio Cavalera sul Corriere della Sera. Il governo britannico prepara l'introduzione di norme più rigide nei confronti dei motori di ricerca internet che danno un'accessibilità al porno. E questa è la crociata di Cameron. Vabbè, siamo al premio La Carta Costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali di oggi vince a pagina 16 Il Giornale, con Giuliana De Vivo. Il titolo è questo ed è già tutto un programma: organizzazione e sesso al mattino, così si lavora al meglio anche d'estate. È un insieme di consigli per chi deve lavorare d'estate. E guardate che consigli. Prima regola: pianificare. Arriva un amico per visitare la città, potete fare una pausa pranzo con lui. Ebbè, ma insomma, che consiglione, chi non ha mai pensato a una cosa del genere? Oppure flessibilità, fate un uso intelligente dell'orario, ma dai! E poi ricordate che il benessere in ufficio comincia prima di entrare in ufficio, e qui il segreto è sesso al mattino, cari italiani, sesso al mattino. E poi l'ora, ecco, qui mi sono un po' incupito, perché l'orario della sveglia perfetta sono le 7. Allora, le 7, sesso al mattino. Io sono arrivato qui alle 5:30, ho guardato Carmelo Lauricella, il mio tecnico, negli occhi, ho detto: oh, e che facciamo qui? E non sono le 7, ma dicono sesso al mattino. E che si fa? E niente, lui è andato dritto per la sua strada. Vabbè, ma la carta costa! Colleghi del giornale, ricordatevelo, la carta costa. Andiamo al giornale radio, alle 8.30 avremo il ministro della difesa Mauro. Mattino. Siamo qui alle 8.17 minuti in punto, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, oggi sulla stampa ci ha molto incuriosito questa notizia che abbiamo trovato a pagina 5, un'intera pagina. Renzi all'assalto delle maxi pensioni. L'ipotesi, la proposta che presto si concretizzerà anche con una proposta di legge, è quella di chiedere un sacrificio del 10% a chi in Italia guadagna più di 3.500 euro di pensione. Che ne pensate? Proporrà tutto questo alla Camera, questa proposta renziana, l'onorevole del PD Joachim Gutgeld, che è con noi, che saluto. Buongiorno onorevole Gutgeld. Buongiorno. Allora, è davvero così? Cioè, pensate, e lei proporrà una proposta di legge, farà una proposta di legge in questo senso, chiedere un contributo, ci spieghi di quanto e sopra i 3.500 euro di pensione? Ma vorrei precisare prima di tutto, si tratta solo delle pensioni di chi non ha versato contributi corrispondenti, ovvero il concetto alla base della proposta non è di tassare chi prende una pensione alta, ma ridurre un pochettino la pensione di chi percepisce una pensione relativamente alta e non ha versato i contributi corrispondenti. Dico solo un numero indicativo, pensioni sopra 4-5 mila euro mediamente hanno versato contributi che, se avessero preso la pensione con il regime contributivo e non retributivo, sì. No, ricordo a tutti che noi stiamo andando verso un regime contributivo, cioè chi prenderà la pensione tra 20 anni o certo. Tra 30 anni li prenderà solo sulla base dei contributi versati. Allora, con questo metodo la stragrande maggioranza di chi percepisce pensioni relativamente alte ha versato mediamente il 50%. Quindi parliamo di persone che in un certo senso non la meritavano tutta questa pensione, dice, non... quindi prendono, dico per semplificare, il doppio di quello che avrebbero preso, sì, avrebbero sì. Preso se ci fosse stato quindi, già il sistema contributivo, queste persone avrebbero preso la metà di quello che, quindi è giusto che queste persone, secondo lei, rinuncino a una piccola parte di questa pensione in una situazione dove sappiamo che stiamo andando verso un regime pensionistico contributivo, non retributivo, sì. E in particolare riteniamo che questo sia un modo giusto anche per fare un po' di giustizia sociale intergenerazionale. Sì, certo. Cioè, noi quindi, pensiamo di usare questi fondi per fare un grande piano di rilancio del lavoro per i giovani. Quindi lei, onorevole Gutgeld, pensa anche alle persone, non so, per esempio i cosiddetti baby pensionati, quelli che sono andati in pensione prima, che magari hanno accumulato, hanno visto crescere una pensione sopra i 3.500 euro, ma non meritandola, diciamo così. Allora, diciamo che il focus di questa proposta è su chi percepisce delle pensioni relativamente alte, quindi qua non prendiamo in considerazione i cosiddetti baby pensionati con pensioni relativamente basse. Ok, quindi quelli con pensioni alte. Quante sono queste persone? E c'è anche uno studio di quanto si potrebbe guadagnare per lo Stato? Allora, queste pensioni sopra 7 volte la pensione minima, quindi sopra 3.500 euro, sono, se non vado errato, circa 450.000 persone, e si parla di un montante pensioni complessivo di circa 33 miliardi all'anno. 33 miliardi. Un 10% sarebbe strutturale o un una tantum? Cioè 10%. Allora vedremo strutturale. Strutturale, cioè quello proprio di togliere il 10% in maniera strutturale. Ho letto sulla stampa che lo Stato incasserebbe 4 miliardi, ma 4 miliardi l'anno? Questo. Allora l'idea è questo, anche sommare un paio di anni di mancata indicizzazione, quindi questo porterebbe sopra 4 miliardi Okay. Il montante. Ecco, quindi anche prevedere la non indicizzazione per cui per un paio di anni, per quindi continuare la non indicizzazione praticata dal governo Monti per ancora un paio di anni per queste pensioni. Senta, come lei ben sa, in Italia c'è poi la Corte Costituzionale alla quale si può poi ricorrere quando si parla di diritti acquisiti, la Corte Costituzionale, quando sono stati tentati dei provvedimenti anche nel toccare le cosiddette, per esempio, pensioni dei magistrati, c'è stato un ricorso, la Corte Costituzionale ha bocciato tutto. È davvero fattibile, secondo voi, una proposta del genere? Io credo che poi, studiando bene gli aspetti giuridici e legali, si potrebbe fare una proposta che tenga all'esame della Corte Costituzionale, e lo dico in estrema ratio, se serve cambiamo la Costituzione. Cambiare la Costituzione. Perché mi sembra francamente un po' poco comprensibile che una mossa di questo tipo non è fattibile per motivi giuridici legali. Quindi, se questo è, cambiamo la legge. Perché lei dice non è possibile? Cioè, sa, la questione dei diritti acquisiti spesso viene messa in Italia in avanti, se vuole, per dire non si può fare nulla, però il dato di fatto è che finora è funzionato così. Cambiamolo. Se questo è, in altro modo interveniamo sulla Costituzione, visto che cerchiamo di intervenire su tanti altri aspetti, io credo che questo aspetto importante merita intervento costituzionale, se non c'è un altro modo. Secondo lei, onorevole Gutkel, non c'è una sorta di rischio di classe sociale, di lotta di classe sociale in Italia, cioè vedere i ricchi contro i poveri, prendere di più ai ricchi per dare un po' di più ai poveri? No, ma questo, infatti, il concetto non è da prendere ai ricchi. Questo è il concetto di equità, ma non nei confronti di chi guadagna molto, ma nei confronti di chi prende un privilegio che non è giustificato. Il concetto non è ricco e giustificato. È una persona che prende anche una pensione di 20.000 euro al mese, che però ha versato i contributi sottostanti, non va toccato. Ecco, questo è un punto infatti che lei ha chiarito all'inizio, cioè chi ha versato tutti i contributi per ottenere una pensione anche altissima, questi non verrebbero toccati, verrebbero toccati solo quelli che hanno versato dei contributi non corrispondenti alla pensione molto alta che hanno. È caduta la linea, l'abbiamo trovata in treno, ma comunque va bene così, insomma è chiaro quello che ci sta dicendo l'onorevole Yoram Gutgeld. È una proposta, ripeto, molto interessante, che molto farà discutere, che Renzi ha buttato lì in una frase quando ha parlato nell'ultima intervista con Mentana, dicendo bisogna colpire le pensioni di chi guadagna più di 3.500 euro al mese, giusto che dia una sorta di contributo di solidarietà. Tutto verrà concretizzato secondo appunto quanto scrive anche la stampa, come ci ha detto l'onorevole Gutgeld, che è un onorevole di stretta diciamo ideologia renziana, giusto per farci capire a tutti, e che proporrà questa cosa in Parlamento, la possibilità di prendere il 10% a chi guadagna in pensione sopra i 3.500 euro ma ad avversato dei contributi che non porterebbero a una pensione così alta se ci fosse il sistema contributivo anche adesso, quindi non tutti quelli che hanno versato, non tutti quelli che guadagnano più di questa cifra, si tratta di 450.000 persone per un monte pensioni di 33 miliardi l'anno. Staremo a vedere, noi tra 5 minuti, anzi 4 minuti dopo la pubblicità, avremo il ministro alla difesa Mario Mauro, sarà con noi dalle 8.30, dunque fino alle 8.55, per parlare dei vari temi di attualità politica e concernenti il suo ministero, gli F-35 in primo piano sicuramente, ma anche la guerra in Afghanistan, la vicenda dei due marò italiani in India. Di tutto questo parleremo con il ministro tra 4 minuti. 24 mattino. Eccoci qui, sono le 8.30 minuti e allora ben ritrovati da Alessandro Milan, siamo fino alla chiusura del programma alle 8.55 con il ministro alla difesa Mario Mauro, che è ai nostri microfoni. Buongiorno ministro e grazie di aver accettato questo invito, eccoci qua. Buongiorno. Senta Ministro, i temi di cui vogliamo parlare, come sa, sono molti. Quello forse che riguarda più il Ministero, che ha fatto dibattere più gli italiani, che magari non sono neanche avvezzi a questa terminologia, è la vicenda degli F-35. Allora, siamo a un punto di snodo, se ce la può chiarire una volta per tutte, se ormai questa vicenda, anche con le mozioni bocciate da parte di SEL e Movimento 5 Stelle, è chiusa, e cioè se gli F-35 sono un acquisto, per la precisione i 90 F-35 sono un acquisto ormai non più rinviabile per l'Italia, è così? In realtà, guardi, più che acquisto non rinviabile, è un acquisto deciso e pianificato nel tempo e da lungo tempo, nel senso che a partire dal 1998 l'Italia ha deciso di affrontare per tempo, per l'appunto, la sostituzione di quei velivoli dell'aeronautica militare che sono destinati ad andare in pensione nel giro di pochi anni. Perché lo facciamo? Perché il nostro sistema di difesa è incentrata non solo ed esclusivamente sulla difesa del nostro territorio, anche sulla partecipazione attraverso le missioni internazionali a quel principio di contenimento del conflitto che avviene ormai su scala globale per garantire la pace. 254 aerei Tornado AMX e BVX 8 vanno in pensione, 90 aerei F-35, un aereo innovativo di nuova tecnologia a cui l'Italia ha contribuito partecipando al programma di sviluppo, ne prendono il posto, quindi in realtà avremo meno aerei di prima, con una capacità tecnologica più grande e soprattutto lo scopo è quello previsto dalla Costituzione, il fatto cioè che pur ripudiando la guerra come strumento per la risoluzione delle controversie, siamo schierati con la comunità internazionale per quelle operazioni di polizia internazionale che servono per contenere i conflitti e garantire la pace. Non sono parole contraddittorie, pensiamo infatti a quello che è accaduto a Sarajevo, a Srebrenica, nel Ruanda, quando l'indecisione, l'incertezza della comunità internazionale ha consentito il deflagrare di conflitti e invece un'azione di responsabilità anche attraverso la deterrenza militare fa parte dei compiti che la Costituzione ha affidato a un paese come il nostro, che la Carta dell'ONU ha affidato alla comunità internazionale, che l'articolo 42 del Trattato di Lisbona affida all'Unione Europea. Per questo lei ha usato questa espressione armare la pace di recente, che ha fatto un po' a qualcuno storce la bocca, appunto parlando di contraddizione in termini. Lei invece ci spiega che non è in realtà una contraddizione. Guardi, capisco che molte sensibilità si sentano ferite, perché la pace è quel bene prezioso che sembra evidentemente in contraddizione con chi impugna delle armi. Eppure noi dobbiamo essere profondamente consapevoli che la pace è anche un'esperienza a cui si contribuisce con il bilanciamento dei poteri, con il contrasto a ciò che non è stato di diritto, con la promozione della democrazia e della libertà. Tante volte ci chiediamo perché siamo in Afghanistan, per esempio. Eppure dovremmo ricordare che da quando siamo in Afghanistan, un periodo di 10 anni, che non è neanche lontanamente paragonabile al tempo da cui siamo in Bosnia o in Kosovo, quindi nel cuore dell'Europa, sì. Ecco, tutte queste realtà come sono cambiate da quando ci sono le missioni internazionali? In Afghanistan c'erano 900.000 studenti tutti maschi all'epoca dei talebani nel 2001, oggi ci sono 7 milioni e mezzo di studenti e il 35% sono donne. Ci sono il 20% di studentesse all'università, ci sono 69 deputate nel Parlamento afghano. Da quando c'è ISAF, la missione internazionale della NATO a guida di una risoluzione ONU, sono stati costruiti 120 ospedali e il 70% degli afghani accede ai servizi sanitari. Cioè, secondo lei, quindi, si può esportare la democrazia, come si suol dire? Questa è un'espressione che io trovo un po' forzata, sinceramente. Quello che so però è che nel cuore delle persone alberga il desiderio delle cose buone. E quello che noi vediamo in paesi come l'Afghanistan, così come tanti altri paesi che hanno avuto la contraddizione, per esempio, di una guerra civile che le cose possono evolvere verso il meglio. Mm. Penso anche a tanti paesi africani, Mozambico, l'Angola, sono passati attraverso guerre civili durissime e crudeli. E tutto questo comporta un principio di responsabilità sempre crescente da parte della comunità internazionale. Questo noi certamente. Dobbiamo, però, diciamo, ergerci a giudici, quanto piuttosto condividere i bisogni e le contraddizioni degli altri paesi e abbracciare questi popoli in modo tale da offrirgli un'opportunità. Però, ministro Mauro, a chi dice, per esempio il sindaco di Roma, Ignazio Marino, lo ha fatto anche durante la campagna elettorale, prima in Parlamento, meno F-35 più scuole, cioè mette sul piano la questione della crisi economica in questo momento, ci costeranno circa 12 miliardi, se non sbaglio, questi 90 F-35, dice meno lì e più invece soldi dove servono. Cosa risponde? Tanto che per essere un esponente di spicco del Partito Democratico dovrebbe ricordare che cosa il Partito Democratico ha fatto a partire dal 98. A proposito, era un governo D'Alema quello del 98. Sì, che ha preso la decisione iniziale. Non solo, ma il Partito Democratico sempre, e non mi risulta che per esempio il parlamentare Marino si sia espresso diversamente all'epoca, cioè nei tanti anni in cui sempre dovendosi mettere a bilancio il necessario per poter fare questi acquisti come altri del settore della difesa, ci sia stato ribellione non solo del PD, non solo del PDL, ma anche di partiti che oggi non sono più in Parlamento, ma che sono, diciamo, idealmente nella continuità di quelli che sono i partiti per esempio della sinistra alternativa. Voglio ricordare, cioè, che questi aerei sono stati votati nei bilanci tra il 2006 e il 2008 anche col governo cosiddetto dell'Unione di Prodi, che era composto di 12 partiti, se non vado errato, tra cui molti della cosiddetta sinistra antagonista. Però molti dicono adesso sono cambiate, è cambiata la situazione, la crisi economica la percepisce, la vede anche lei sotto gli occhi. E infatti è cambiata anche l'impostazione di questo programma, perché era nato con governo D'Alema 150 aerei da acquistare, oggi sono 90. La verità è che sotto la soglia dei 90 vuol dire non avere l'aviazione militare. La verità cioè che non solo il Parlamento ha fatto il suo dovere e bene finora, ma l'ha fatto anche il governo, perché la riduzione da 131 a 90 l'ha fatto il governo, l'ha fatto il mio predecessore, l'ammiraglio Di Paola, che pure era un militare. Insomma, non c'è nessuna voglia di esibizione muscolare da parte del governo, non c'è nessuna voglia di militarismo fuori ruolo. Quindi lei le bollerebbe come demagogiche queste prese di posizione, cioè meno F-35 più scuole, questi slogan li vede anche lei, più asili nido e meno F-35. Mi consenta di dire questo, dai 150 a 90 i soldi ipoteticamente disinvestiti da questi sistemi d'arma, quanti ospedali e quante scuole sono diventate? Io credo che noi dobbiamo farla finita con la demagogia. E dobbiamo invece ricordarci che questo programma, che è un programma che costa circa 12 miliardi, avrà ricavi per circa 16 miliardi, che darà un impulso anche alla struttura della nostra attività di impresa, alle nostre aziende, le piccole e medie imprese soprattutto. Ci sono aziende della Lucania che costruiranno parti in titanio, gli stabilimenti Alenia di Foggia, di Nola, che verranno rinsaldati nella loro capacità realizzativa e quindi avranno più lavoro, c'è il grande investimento di Cameri, ci sono realtà che approfittando del fatto che questo aereo rappresenta un input generazionale innovativo, sì, torneranno ad essere competitiva nei loro settori di alto profilo. È sicuramente, ministro, una delle vicende che più nella percezione dei cittadini è percepita come uno spreco, ecco, come un qualcosa di cui non si ha bisogno. Però lei ci ha motivato questa sensazione, che è una sensazione che è legata al fatto che viviamo un momento di grande difficoltà, eppure qualunque famiglia sa che ci sono dei momenti in cui c'è grande difficoltà, in cui si rinuncia a molte cose, difficilmente si rinuncia a cose essenziali, la sicurezza è una di queste. Le faccio una domanda molto concreta, lei sa tranquillizzarmi da qui a 40 anni su quello che è il destino dell'area sud del Mediterraneo? O abbiamo forse dimenticato dov'è l'Italia? Lei sa cioè tranquillizzarmi sul destino di paesi come l'Egitto, come la Turchia? No, questo assolutamente no. Assolutamente. E quindi è ragionevole o non è ragionevole che l'Italia, che pure deve fare fronte a grandi sacrifici, mantenga innanzitutto un principio condiviso di sicurezza con i propri alleati, facendo onore ai propri impegni, e sono impegni da cui dipende comunque anche il bene del nostro popolo. Ma questa è la sua posizione molto chiara. Senta, Ministro Mauro, io le vorrei chiedere sulla vicenda dei Marò, perché ho letto due giorni fa un titolo, non so se dire ottimista, sulla stampa, cioè i Marò in Italia entro Natale, parte il processo e i Marò potrebbero arrivare entro Natale. Può dare un'idea di tempi abbastanza certa in questa nebulosa, insomma, che da un paio d'anni ci portiamo insieme con il contenzioso con l'India? Intanto, innanzitutto, ricordo che questo governo si occupa, per decisione e volontà del suo Presidente del Consiglio, in forma prioritaria di questo caso, avendo voluto collocare il caso all'interno delle indicazioni del discorso introduttivo del Presidente del Consiglio, unica vera fiducia data finora al governo su parti programmatiche. In secondo luogo, mi piace ricordare che a partire da quella data noi ci siamo dati un metodo abbastanza efficace, vale a dire c'è un incaricato del governo, che è Staffan de Mistura, riconfermato nell'incarico, c'è una struttura che vede negoziatore naturale il Ministero degli Esteri, garante il Presidente del Consiglio, e in cui i ministeri come la difesa, che sono titolari del rapporto con i due fucilieri di Marina, sono da vicino e sono da presso per far sostenere moralmente e diciamo nella concretezza loro e le loro famiglie. Dopodiché c'è stata un'azione dispiegata con efficacia finora che ha consentito di accelerare sulla parte delle indagini volute dopo la battaglia fatta nel periodo precedente per cassare la sentenza del Kerala, avere quindi un nuovo e più giusto processo. Sì. Questo processo sta completando la parte delle indagini e verosimilmente a fine di agosto comincerà il processo vero e proprio. E quanto dovrebbe durare? Sulla base della giurisprudenza indiana e del vissuto di queste corti, che sono del tutto particolari, ricordiamo che c'è un giudice monocratico, io non credo che quel processo possa prendere più di un paio di mesi. A quel punto avremo modo di confrontarci con gli esiti di quel processo, e in questo senso posso spiegare le affermazioni che hanno portato alle date così indicate entro da Natale. Parte di Staffan de Mistura. Cioè, potrebbe essere settembre, ottobre? Guardi, sì. Non per scaramanzia, sì, certo. Ma semplicemente per conoscenza lunga e articolata, dopo 14 anni di Parlamento europeo, di questioni internazionali di questo tenore, specialmente laddove manca un SOFA, cioè un accordo di interscambio di garanzia diciamo sul ruolo dei militari tra paesi, che pure è poi stato provveduto nell'aprile di quest'anno. Dico che bisogna da un lato essere prudenti e dall'altro sapere che Staffan de Mistura è uno dei diplomatici più esperti, è uno degli uomini migliori che abbiamo. Sì, no, questo senza dubbio. Diciamo sono, che sono senz'altro convinto che non abbia parlato a cuor leggero. No, chiaro, l'ottimismo sempre con la cautela, però la speranza di poterli vedere entro Natale è un'ipotesi anche concreta, insomma. Sì, guardi, io non parlo solo di questa speranza, parlo del dovere da parte di un governo come il nostro nel avere la speranza e nel volere che i due fucilieri militari tornino a casa, anche della consapevolezza e della certezza che il governo ha, e quindi della volontà che questo si rispecchi in una sentenza, di attestare che sicuramente i nostri fucilieri marina si sono comportati, diciamo, sulla base di procedure che vogliamo vengano riconosciute dalle corti indiane. Sì. Cioè, non bisogna mai dimenticare che noi non semplicemente li vogliamo a casa, ma chiediamo anche che vengano a casa con onore. E questo certamente. Allora, alle 8:46 minuti siamo con il Ministro della Difesa, Mario Mauro, ancora per una decina di minuti fino alla fine del programma. Ministro Mauro, le chiedo questo sulla vicenda kazaka, quella che tutti abbiamo imparato a conoscere, che ha rischiato anche di creare diversi problemi al governo. Intanto le chiedo, mi scusi, ma le sembra ammissibile che un ministro, nel suo caso il collega Alfano, potesse non sapere quello che alti vertici del ministero hanno combinato? E le chiedo anche, fosse successo a lei, scusi, lei cosa fa? Va dai suoi alti vertici della burocrazia del ministero e dire: ma scusate, ma state facendo una cosa a mia insaputa? Guarda, è più che ammissibile, mi sembra accaduto. Quindi prendiamo atto del fatto che un'inchiesta voluta con prontezza e con altrettanta prontezza messa a disposizione del Parlamento perché potesse fare le valutazioni politiche del caso, accerta, come ha esposto con chiarezza il Presidente del Consiglio, che non vi sono state responsabilità da parte del Ministro Alfano. Ma in questo caso, mi perdoni, un Ministro non ha il dovere di dire non so quello che succede nel mio Ministero e quindi devo dimettermi perché non lo controllo questo Ministero. Se devo essere sincero, dati i modi e i tempi in cui questa cosa si è svolta, direi che quel Ministro è nelle condizioni invece per imprimere una svolta a una struttura che probabilmente ha anche sofferto per una lunga assenza del capo della polizia e quindi credo che siccome da quello che ho capito, ho compreso, quelli sono stati proprio i giorni che precedevano, erano appena consentanei con la nomina del nuovo capo della polizia, siano stati a maggior ragione giorni difficili per tutta la struttura. Una struttura che, lo ricordo, fa uno dei lavori più difficili del mondo, perché l'Italia non è un paese facile, è una struttura quindi che in questo momento deve essere sostenuta dal proprio ministro per poter affrontare un momento così delicato e per poterne venire fuori a testa alta, perché sicuramente tra i collaboratori di quella struttura del Ministero dell'Interno c'è tanto orgoglio e tanta voglia di far comprendere come siamo in buone mani. Quindi giusto che il ministro Alfano rimanga. E sulle voci di rimpasto, lei, ricordiamo, è di Scelta Civica come componente del governo. Sulle voci di rimpasto, per esempio, il PDL dice dobbiamo avere più ministri, ha sentito qualcuno del PDL non all'interno del governo. Lei lo ipotizza come possibile rimpasto in autunno? Lei mi permetta di dire che credo che oggi gli italiani siano molto più drammaticamente coinvolti dal problema dei pasti che non da quello dei rimpasti. Vabbè, certo, questo sì, però mi riporta la questione, guardi che così riporta la questione degli F-35, sa quanti messaggi dicono noi non mangiamo e pensiamo agli F-35? Noi pensiamo a ragion veduta a continuare a investire in un settore come quello della sicurezza e della difesa, e se facciamo mente locale a quello che ci succede tutti i giorni, forse questo è più comprensibile. Chi di noi penserebbe di fare una crociata per chiedere ai carabinieri o alla polizia di girare disarmati? Dobbiamo capire che siamo un paese che non vive in una condizione idilliaca, siamo nel contesto di un mondo in cui i conflitti scoppiano, in cui c'è un problema asimmetrico rispetto al tema della sicurezza, nel senso che ci sono dei malintenzionati che magari non sono gli stati, ma che ormai hanno la forza, la potenza economica, le dimensioni e la mentalità criminale di organizzazioni terroristiche che sono un pericolo reale per tutti. E siamo tra le prime 8 potenze economiche del mondo e quindi la democrazia e la libertà dipendono anche da noi. Le chiedo questo, è possibile un piano di dismissione del patrimonio pubblico che coinvolga anche le caserme? C'è stata anche una polemica a distanza tra lei e Renzi, perché Renzi ha detto per esempio utilizziamo le caserme per dare alloggi popolari ai giovani. Al di là... In realtà le devo dire, sarò molto preciso con lei perché mi dà questa occasione questa mattina, sono 1600 le caserme o comunque i beni militari già messi a disposizione della difesa per il demanio, perché noi non abbiamo proprietà, noi siamo una realtà che usufruisce di beni che sono dello Stato. Quando la difesa non è più interessata all'utilizzo di questi beni, li ritrasferisce al demanio. E questo viene fatto quando per esempio i comuni sono vicini a farne un utilizzo alternativo e comunque razionale. Perché non le cediamo a prescindere ai comuni? Perché costa tenere questi beni senza farne nulla? Perché vanno manutenuti, perché vanno controllati, perché vanno sorvegliati. Allora, nel caso di molte città abbiamo stipulato degli accordi, penso per esempio a Torino dove c'è un efficientissimo sindaco, il sindaco Fassino, che è anche presidente nazionale dell'ANCI, e questi accordi vengono fatti perché appunto i comuni li valorizzino e sappiano fare dei passi avanti. Per esempio in provincia di Bolzano, a Merano, abbiamo realizzato dell'housing sociale, cioè degli alloggi in un'area di una caserma, proprio perché potessero servire il personale militare, ma non solo. Ora, tutto questo ovviamente è possibile farlo anche a Firenze in particolare, perché i beni di cui vi ha parlato il sindaco, sì, per esempio la cosiddetta caserma Gonzaga, sono già stati ceduti da un pezzo, sono già del demanio, quindi il sindaco in quel caso non deve far altro che guardare in casa sua per scoprire perché sta perdendo tempo nell'occuparsi di un qualcosa che sicuramente ben gestito potrebbe servire in chiave quindi lui, però per dice, la propria città. Dal punto di vista del Ministero non c'è nessun problema a mettere a disposizione queste 1600 caserme. Nel caso della caserma Gonzaga è libera da funzioni e nel decreto direttoriale per la dismissione del 24 agosto 2012, quindi tanto per essere chiari non è più un problema della difesa. Senta, Ministro Mauro, le chiedo questo, lei ha detto appunto della sua esperienza lunga in Parlamento europeo, sa che una delle questioni più dibattute è il fatto che la politica europea di difesa non sia una politica comune, non esista una politica di difesa comune, non solo una politica di estera comune ma anche una politica di difesa comune, questo secondo lei corrisponde al vero ed è un problema che va affrontato come? Beh, risponde sicuramente al vero, nel senso che la politica estera di difesa comune è ad oggi una buona intenzione, sicuramente più rafforzata dalla creazione del servizio di azione esterna, quello che viene descritto in modo un po' approssimativo come il Ministero degli Esteri europeo. Anche qui le farò una battuta per far capire di che cosa stiamo parlando. Una volta si diceva, riprendendo Kissinger, che era difficile trovare il numero unico dell'Europa. Oggi possiamo immaginare che questo numero per la politica estera e di difesa esista, ma a quel numero non risponde una persona, per esempio la signora Ashton, o meglio, risponde la signora Ashton ma in funzione da centralino, a cui si può continuare dicendo premere 1 per la politica estera e di difesa della Germania, premere 2 per la politica estera e di difesa della Gran Bretagna, premere 3 per la politica estera e di difesa della Francia. Siamo cioè a metà del guado. Perché la politica sia realmente condivisa occorre fare dei passi e uno più che necessario è quello del dicembre del 2013, quando avremo, dopo anni, un Consiglio europeo dedicato alla difesa e sono sicuro che l'Italia, e io sto lavorando con gli altri ministri per questo, si presenterà con delle proposte significative nella scia di quella che era la grande, enorme intuizione di De Gasperi del 54, vale a dire una politica di difesa comune. Ministro Mauro, sa che Famiglia Cristiana l'ha messa nel mirino un po' in un editoriale? Lei tra l'altro è cattolico e in un editoriale Don Sciortino ha parlato dei politici cattolici definiti afoni e ha messo anche lei dicendo che Mario Mauro eccelle solo per eccesso di zela nella difesa dei cacciabombardieri, sempre lì andiamo a finire. Ha qualcosa da rispondere alla Famiglia Cristiana? Ci è rimasto male per questo attacco al suo essere cattolico e afono? Però non ho risposta da dare, in genere ai giornali che esercitano il proprio diritto di critica, il proprio dovere di critica nei confronti di organi costituzionali dello Stato. Da parte mia c'è un problema serio, cioè che quando in genere parla, se non la Chiesa direttamente, uomini che comunque fanno del proprio vissuto di fede l'aspetto caratteristico della propria professionalità, normalmente mi sento interrogato. Le faccio questa domanda anche: se c'è la condanna a Silvio Berlusconi, è un'ipotesi che sa che il 30 luglio incombe un po', anche lei mi dirà questo separiamo dal governo eccetera, oppure può avere un'influenza sul governo? Lei che Berlusconi lo conosce anche bene, è stato con Berlusconi a lungo. Sì, guardi, io ho molti elementi di distanza sul piano politico ormai dalle posizioni del presidente del PDL. Però è un uomo che ha un vissuto di uomo di governo che mi fa pensare che mai e poi mai sacrificherà un governo così necessario all'Italia agli umori di quello che è il dibattito politico. Ma più che umori rischia una condanna, c'è un qualcosa di concreto? Guardi, in questo senso io sono portato a pensare che Berlusconi abbia molto chiaro quello di cui l'Italia ha bisogno e per cui non credo che il suo senso di responsabilità gli farà mai mettere in discussione l'esistenza di questo governo. Io qui mi fermo e la ringrazio, Ministro. Grazie buon per lavoro. Essere stato con noi. Era il Ministro della Difesa, Mario Mauro, che potete riascoltare tutto sul sito di radio24.it. Qui ci fermiamo con i saluti e ringraziamenti ad Alessandro Longoni e Elisabetta Fusconi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Potete seguirci anche su Facebook 24 Mattino, su Twitter 24 Mattino, su Twitter ci sono anch'io, il mio profilo è Alino Milan. Che dire, l'appuntamento è rinnovato a domani? Sì, 6:30 puntuali.